cautela quando a me non capita di compilarli in kernel, quindi uso sempre l'interpreti. Devo dirgli dove put init quale fra i possibili, sempre quello con lo stesso numero del kernel. Ecco, allora, manualmente dalla riga di comando di grub abbiamo specificato quale partizione vogliamo partire. Gli abbiamo detto che kernel far partire, gli abbiamo dato anche sto benedetto init RD perché per essere sicuri che abbia i driver di quel disco perché possa partire, dandogli boot la fa e fa partire la Fedora, visto che non partiva, ma avevamo capito che nella partizione 5 c'era la Fedora. Una volta avviata, vado a reinstallare grub e gli dico di andarla a mettere all'inizio della partizione di Fedora. Così il chain loader la volta dopo funzionerà. Sei un grande. Si è meritato il tuo bicchiere d'acqua. A parte Clonezilla, che ma mi pare più o meno abbiamo visto tutto. Se avete domande, insomma, c'è della documentazione comunque sul sito di Clonezilla. Tra l'altro ce l'ho anche stampato una versione magari vecchia, ma insomma, cercando Clonezilla dovrebbe essere clonezilla.org, il sito www.clonezilla.org, e andate a cercare la live, questo per salvarvi i dati prima di fare tutte le cose. Esiste anche una live che ha Gparted e Clonezilla insieme. Però non tutte e due vi permettono di farlo graficamente, cioè vedete graficamente Gparted e poi dovete da riga di comando usare Clonezilla, invece se le usate separatamente avete un ambiente grafico. Beh, Clonezilla non è proprio grafico, eh. Ah sì, semi grafico, ha, come si chiamano, NQSIS. NQSIS, Sì, Sì, però la sì, differenza è che almeno capisco. da un menu Sì, si da un menu possono dà anche le scegliere. spiegazioni. Ti scrive anche se non sai di cosa stai facendo, lascialo così. Non farlo. Sì. Beh, sì, quando si dà un comando a Clonezilla bisogna avere ben presente di quello che si vuole fare, poi si può comunque sbagliare, ma bisogna almeno essere convinti. Se no è meglio lasciarlo perdere, insomma. Una nota che pare una fesseria, quando tu hai detto, no, è proprio una fesseria, di fare l'inventario, eccetera, io ho visto che è indispensabile avere carta e penna lì di fianco. Sembra una cazzata, detta a chi usa i computer, però sì, appunto. E aiuta avere in ogni momento su carta la situazione Sì, quando qual aggiungi un disco, mi hai detto tu prima, oppure ti scambi, hai usato Gparted, hai modificato le partizioni. Avere proprio con la penna, perché al momento che li avvii, la memoria può essere labile. No, in ogni momento sarebbe bene avere uno specchietto su carta di qual è la situazione di quello che si va a fare, appena si fanno delle modifiche, modificarsi le cose nel proprio specchietto, se no è facilissimo perdersi. Complimenti, se posso dirlo, no, sei andato a fondo su un argomento che tante volte, insomma, si dà per scontato. Io sì, sei stato veramente preciso. Era ampio, ho cercato di metterci un po' tutto. Altre cose che si possono personalizzare, sono sono di carattere più estetico, mettere un'immagine di sfondo, come vi dicevo all'inizio, mettersi la propria, ma insomma quelle sono cose più... E una cosa che era accennata anche il fatto che si poteva mettere anche FreeBSD o comunque USB. Ecco, ho provato, non qua, sul desktop, a installare FreeBSD. Intanto ha tutto un altro sistema lui di vedere le partizioni, ancora diverso. Con lui mi sono regolato così. Ho creato dello spazio libero, non l'ho partizionato, perché nel caso che vi ho mostrato invece ho creato delle partizioni per Linux e a FreeBSD non le accetta e vuole le sue. Allora, ho creato dello spazio libero, fatto partire l'installazione. Durante l'installazione gli ho detto usa lo spazio libero. Anche lui ha una swap, creato le sue le partizioni, quelle sue, sia di swap che per i dati, e poi pretende di scrivere su master boot record e mi rovinava il mio, ma sono riuscito comunque a venirne a capo dicendogli no, non nel master boot record del primo disco. Allora lui ha accettato di metterlo nel master boot record del secondo. Nei nostri esempi, quando facciamo il chain loader, specifichiamo sempre una partizione. Lì ho specificato il disco, cioè intendendo il master boot record. Gli ho detto non HD1, numero della partizione, a group, ho detto fai partire HD1, che era il secondo disco, e lui ha fatto partire il master boot record. Un altro modo sarebbe stato magari da BIOS magari dirgli di far partire il secondo disco, caricava il master boot record e faceva partire il FreeBSD. Mi sa che ci siamo. Io ho visto di solito abbastanza sbrigativo, evidentemente tu è finita. Un esempio, char di 8.